English Bit di Giulia Crivelli. Lifelong. Lifelong learning, how to survive in the age of automation. Andare a scuola tutta la vita, come sopravvivere nell'età dell'automazione. E questo è il titolo della copertina dell'Economist di venerdì scorso e richiama un vero e proprio special report all'interno del settimanale britannico presentato dal direttore Zanny Minton-Bedos con queste parole. Our cover this week is about how to help people keep learning throughout their careers. La nostra copertina di questa settimana si occupa di come aiutare le persone a non smettere mai di imparare lungo tutto il loro percorso professionale. Career è percorso professionale ancor prima che carriera, ricordiamolo. Without the skills to remain useful as innovations arrive, workers suffer. Senza le competenze necessarie per restare utili mentre arrivano le innovazioni, i lavoratori soffrono. If policymakers are to avoid creating a massive underclass, they must help people learn as they earn. Se i politici vogliono evitare di creare una gigantesca, massive, sottoclasse di cittadini, devono aiutare le persone a imparare quando ancora sono lavoratori attivi. So far, their ambition has fallen pitifully short. Fino ad ora questa ambizione non ha raggiunto alcun risultato. La prima parola che ci interessa è lifelong, letteralmente lungo come la vita. A lifelong companion, il compagno di una vita. A lifelong friendship, un'amicizia durata una vita. Long, usato come suffisso, funziona anche con altre parole che indicano un certo lasso di tempo. A year-long master in economics, un master di un anno in economia. A month-long vacation, una vacanza di un mese. Ma vediamo altre delle parole usate dal direttore dell'Economist. Throughout, ad esempio. In italiano dobbiamo usare più di un termine per tradurla. Their export, their products throughout the world. Esportano i loro prodotti in tutto il mondo. The museum is open daily throughout the year. Il museo è aperto tutti i giorni per tutto l'anno. The ceremony lasted 2 hours and we had to stand throughout. La cerimonia durò 2 ore e noi dovremmo restare in piedi tutto il tempo. Policymakers sono letteralmente coloro che fanno le politiche, possiamo tradurre con politici o classi dirigenti a seconda del contesto. Infine notiamo to fall short, un phrasal verb che significa fallire o finire. Tom fell short of cash and had to borrow some from me. Tom ha finito i soldi e ho dovuto prestargliene un po'.